Benvenuti e benvenute a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9, potete ascoltarci anche in streaming sul sito www.ondarossa.info. Ascolta la diretta. Oggi un altro bel film, Kill Bill, il primo volume, diciamo così, e il secondo. Ripercorreremo un po' la colonna sonora di entrambi, e prima di iniziare con la musica e di parlare un po' di questo film e di questo regista straordinario, volevo ricordare a tutti che oggi giovedì 18 giugno dalle ore 17 inizierà il corteo cittadino da Piazza della Repubblica al Campidoglio, un corteo per ricordare che stiamo resistendo, vogliamo resistere agli sfratti, agli sgomberi delle case popolari, lottare contro la vendita del patrimonio pubblico, le nocività, le grandi opere e le devastazioni dei territori, la privatizzazione dei servizi, dalla salute ai nidi. Vogliamo ricordare che gli studenti si battono contro la menzogna della buona scuola e i lavoratori che caparbiamente tengono testa a Lega Coop. Vogliamo ricordare che siamo contro padroni e padroncini dei magazzini della logistica, come in qualsiasi altro posto di lavoro. Vogliamo ricordare che ci battiamo contro la propria contro la condizione di precarietà e di sfruttamento di chi è stanco di vivere dentro periferie sempre più abbandonate. Ci battiamo e scendiamo in piazza per chi non può accettare rastrellamenti di persone in cerca della libertà, come sta accadendo in questi giorni alla stazione Tiburtina, dove centinaia di richiedenti asilo aspettano accampati per strada di poter ripartire. Alziamo la testa per non diventare gli utili idioti di nessuno e per riprenderci con dignità i nostri diritti. Riprendiamoci le strade, scendiamo in piazza, sarà un'emergenza che vi seppellirà, la città di sotto a rovesciare Roma. Six, we rode on horses made six. He wore black and I wore white. He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Day sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. E questa era la versione di Nancy Sinatra della famosa canzone Bang Bang. È una bella versione con questa chitarra vibrata che accompagna proprio la scena di Uma Thurman iniziale di Kill Bill, la scena alla sposa. È proprio adatta perché ne sottolinea il dolore di Uma Thurman, diciamo il sottofondo di tristezza, diciamo, dell'inizio del film. E la colonna sonora di Kill Bill, dei due film di Kill Bill, è molto bella. Passa dai brani dance anni 70 a motivi tradizionali giapponesi, e in più ha delle ballate blues. La colonna sonora del primo film è trattata da RZA, The Razor, membro dei Wu-Tang Clan, rapper statunitense, mentre il secondo film è curata da Rodriguez, poi vi dirò in seguito. Qualche notizia sul film: il primo volume è uscito nel 2003, il secondo nel 2004. Inizialmente Tarantino voleva fare di questo film un unico film, chiaramente durando più di 4 ore questo non era possibile, quindi è stato deciso di dividerlo in due parti. E inoltre questo film ha delle straordinarie citazioni continuamente, perché Tarantino è un grandissimo conoscitore del cinema, di tutto il cinema, dal cinema che riguarda i B-movie al cinema giapponese, e queste sue grandi passioni, insomma, si fanno vedere, poi ne parleremo e magari. Si fanno anche sentire. Si fanno sentire, si fanno vedere, e ne parleremo magari più precisamente durante la trasmissione, andando avanti. Twisted Nerve di Bernard Herrmann è lo stesso che ha fatto la colonna sonora di Psycho, in particolare. Ma di tutto ha fatto la colonna sonora. Tutto, però in particolare tutti i film di Alfred Hitchcock. Sì, però insomma è quello che ha fatto lo stacco di violino della scena della doccia. Certo, certo. Orson Welles ha fatto la colonna sonora proprio del cinema. Un grande. Più grande. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, ask my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. Hey, hey, hey, I'm looking, yes, yes, I know. Don't wanna miss the spot. Keep you little bitty woman, but you'll never know. Watch it, woman, she's on the show. just a little baby woman. How much you'll never know. Oh, now I just need a simple clue where she's coming out. And I promise to make it worth your while. If you mark her right, well, you price it, make it fast. Waiting for too long. I got that woman on my mind. I'm gonna bring her home. Abbiamo ascoltato sempre la colonna sonora di Kill Bill 1, Dead Certain Female di Charlie Feathers, considerato la leggenda del rockabilly. È cresciuto in una fattoria e ha imparato a suonare la chitarra da un bluesman nero, contadino nei campi di cotone. Ha scritto delle sue canzoni, le ha scritte insieme a Elvis Presley. Si può dire che il suo stile di musica leggera ha visibilmente influenzato la musica per diversi anni a seguire. E io voglio salutare proprio calorosamente Simona, nostra sostenitrice su Facebook, grande, ciao, e Martina che mi aiuta spesso e non molto volentieri a tradurre qualcosa che io trovo in giro per internet. Un abbraccio a Simona e Martina. Poi vi volevo raccontare che in molte scene di questo film, di Kill Bill appunto, sembrerebbe che ci siano degli errori o comunque degli elementi molto fantastici. Questa è una scelta consapevole del regista, che vuole che la storia del film faccia volutamente parte di un universo parallelo, proprio nato dalla sua fantasia, dove tutto può accadere. Inoltre gli errori che vedete, che vi sembrano intenzionali, e lo sono, e sono anche evidenti e spesso grossolani, sono per esempio, non so, le macchie di sudore o di sangue sugli abiti della sposa che cambiano forma, oppure la capigliatura sì, in cui la sposa ha i capelli più lunghi e in altri più corti, così via, vanno interpretati come un ennesimo omaggio ai film del genere exploitation, cioè quelle pellicole fatte con un budget limitato che spesso impediva di rigirare scene in piene zeppe di errori macroscopici. È decisamente anni 70 il pezzo Run, Faye, Run di Isaac Hayes, della colonna sonora di Kill Bill, in particolare il film numero 1. E questo brano è uno dei temi di Uomini duri di Duccio Tessari. Si può dire Isaac Hayes, che è stato uno degli artisti più importanti dell'etichetta discografica Stax Records, antagonista invece della Motown per quanto riguarda la black music. Abbiamo parlato della Motown nella puntata precedente. Isaac Hayes ha composto molti brani, tra cui il famosissimo So Man, e da notare che ha fatto anche una parte in un film 1997, Fuga da New York, nel ruolo del gangster Il Duca. Questo era un gruppo giapponese bellissimo, The 5678, con il brano Woohoo. E le 5678 è un gruppo femminile rock giapponese, è stata la prima garage band giapponese femminile. Nascono nell'86 per iniziativa delle sorelle Sashiko e Yoshiko Ronnie Fujiyama, di Tokyo, e appassionate di rock, per l'appunto. Si dice che come le ha conosciute Tarantino? Stava facendo acquisti in un negozio a Tokyo, ha sentito un loro brano e ha chiesto e ottenuto per fortuna il CD dal commesso del locale, e quindi ha inserito, non solo ha inserito il brano nel film, ma ci sono proprio loro, fanno una parte nel teatro dove poi se si ammazzano dei botte lì. Io invece volevo ancora raccontare qualcosa sulla genialità di questo regista, che riempie questo film di riferimenti e citazioni più o meno esplicite di altri film. Per esempio David Carradine, che interpreta Bill, è amatissimo da Tarantino per la serie televisiva Kung Fu. Vale lo stesso per Sonny Chiba e Gordon Liu, maestri di arti marziali del cinema orientale. Altre influenze a cui Tarantino rende omaggio sono gli spaghetti western italiani, e questo, vabbè, lo sanno tutti, non è una novità, e di Sergio Leone, e appunto i film di Kung Fu degli anni 60 e 70. La tuta gialla con fasce nere indossate da Uma Thurman è identica a quella indossata da Bruce Lee nell'ultimo combattimento di Chen. E questo era il brano conclusivo di Kill Bill 1, The Lonely Shepherd di George Zamfir. George Zamfir è un flautista rumeno, virtuoso specialista del flauto di Pan, con cui ha eseguito numerosi pezzi, nonché la colonna sonora del film intitolato Picnic at Hanging Rock e tanti altri, tra cui C'era una volta in America e Karate Kid. Oh, questo brano ci introduce all'ospite di questa settimana che è Enrico Magrelli. Enrico, ci sei? Sì, ci sono, buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a te e agli ascoltatori naturalmente. Ben trovato a Tracce di Cinema. Quando qualche settimana fa ti avevo proposto quest'idea, tu subito entusiasta hai detto sì, perché no, le colonne sonore mi piacciono. Allora abbiamo deciso quest'oggi di assemblare i due Kill Bill, il volume 1 e il volume 2, anche perché nelle intenzioni di Tarantino questo doveva essere un film sterminato di oltre 4 ore. Cosa ne... ho visto anche che ne hai scritto a suo tempo del film. Che ci dici di quest'opera, Enrico? Partiamo dal film, poi magari entriamo un po' più sul dettaglio, pur non essendo uno specialista, lo dico subito per gli specialisti in ascolto di musica, ma insomma credo di avere un minimo d'orecchio da spettatore che va spesso al cinema. Io lo considero, è un film sul quale, come sappiamo, i tarantiniani si mettono in ginocchio come di fronte a una epifania estetica e storica del cinema, e forse fanno bene a farlo. In realtà io ho sempre avuto l'impressione, poi i film che sono arrivati dopo hanno dato ragione, non tanto a me che è abbastanza irrilevante, però al lavoro che Tarantino sta sviluppando nel corso degli anni, che fosse poi una sorta di opera di passaggio in cui c'è un congedo da un'idea e da una nostalgia di un certo tipo di cinema per poi fare delle altre cose, no? Infatti poi tutto quello che è arrivato dopo, da Bastardi senza gloria a Django e adesso all'Atteso, bisognerà aspettare fino a dicembre, credo fino a gennaio, perché poi in realtà in Italia gli schermi a 70 millimetri non è che ce ne siano, forse ce n'è uno, credo. E quindi questo mi sembra comunque che rivisto ora confermi ancora di più questo, una sorta di opera ponte, no? un pezzo unico, anche se è diviso in due parti. Giustamente ricordavi, Federico, che lui l'aveva immaginato come un'epopea vera e propria, quindi poi le esigenze di marketing, di raddoppiare gli incassi, l'hanno spezzato. Secondo me la cosa di averlo diviso in due parti non fa bene, no? Se adesso per fortuna grazie ai DVD non possiamo mettere uno dietro l'altro e ci godiamo questo respiro così ampio. Mentre per quello che riguarda la colonna sonora, probabilmente in molte altre puntate che avete fatto, Tarantino insieme a pochi altri, almeno dal mio punto di vista, grandi registi in attività in questo millennio, mi vengono in mente due nomi, Wes Anderson da una parte e Paul Thomas Anderson dall'altra, che sono due registi lontanissimi dagli umori, dagli impasti, dalle ossessioni di Tarantino. Ed è comunque la riflessione importante sulla colonna sonora. Sì, ed è comunque la nuovissima Hollywood. È la nuovissima Hollywood, sì. È la nuovissima Hollywood che ha sicuramente ereditato dalla nuova Hollywood l'attenzione decisiva per la colonna sonora. Noi vediamo, ahimè, troppi film in cui la colonna sonora è una sorta di grande moquette piena di acari per le orecchie, per gli occhi, in cui insomma sembra di stare non in una sala cinematografica, sembra stare in un centro commerciale con un tappeto che ci accompagna. Tarantino, così come gli altri due che ho citato, ma rimaniamo su Tarantino, trasforma questa sua sorta di playlist in un altro personaggio del film. Lui lavora sempre con tanti personaggi e tante storie, ho l'impressione che si potrebbero ascoltare le canzoni, le musiche scelte da Tarantino anche senza vedere il film, e questo comunque ci racconterebbe una storia, ci racconterebbe un intreccio, e questo è un dato preziosissimo dal mio punto di vista. Sì. Oh, dicevi che a tuo avviso i due volumi di Kill Bill rappresentano un po' un ponte. diciamo che a mio modo di vedere Pulp Fiction resta un momento epocale, insomma, per quanto riguarda la sua cinematografia, quello che lo ha imposto, e a mio modo di vedere a tutt'oggi uno dei suoi migliori risultati. E questo film, questo doppio film, viene dopo l'episodio di Four Rooms, dopo Jackie Brown, quindi una decina di anni dopo Pulp Fiction. E a questo proposito, Enrico, volevo chiederti quali sono, a tuo modo di vedere, i tratti qualificanti del cinema di Tarantino. Ma sai, forse partirei da quello che lui diceva un po' giocando, un po' no, la sera del Donatello, no? Quando a un certo punto Tullio Solenghi gli ha chiesto, si parla molto, no, che cos'è un film alla Tarantino, costringendolo a fare il teorico di se stesso, cosa che non bisognerebbe fare mai con nessun regista, però in un contesto festoso di consegna dei premi lo si poteva anche fare. Secondo me il tratto distintivo è tu prima hai usato non a caso, no, l'etichetta, che è più di un'etichetta, della nuovissima Hollywood. Così come la nuova Hollywood ragionava su quelle che erano i ritmi, i tempi, le strutture classiche del cinema, ho l'impressione che la nuova Hollywood, la nuovissima Hollywood, è Tarantino prima di tutti gli altri, molto più di altri nomi che ci possono venire in mente, che poi magari hanno fatto uno o due film interessanti però poi sono spariti. Tarantino per fortuna invece comincia ad essere un autore strutturato con tanti film, parte laddove la nuova Hollywood si era fermata. Questo mi sembra il tratto più importante. Se la nuova Hollywood ha capito che lo spettatore è cambiato, lo spettatore è più consapevole, parliamo degli anni 70 e quindi sì. Siamo più di 40 anni fa, quindi la consapevolezza degli anni 70 non è quella che abbiamo noi, spesso anche una consapevolezza a nostra insaputa, no? Perché comunque abbiamo accumulato nel piccolo grande hard disk della nostra testa così tante visioni, così tante storie, e Tarantino quindi gioca e scommette su quello. All'inizio, quando si cercava di definire o capire o interpretare il fenomeno Tarantino, ci si limitava a giocare con l'etichetta di citazionista. Tarantino è molto di più. Tarantino cita esplicitamente, non nasconde assolutamente questo tipo di pratica, però ridurre Tarantino soltanto a uno che prende degli ingredienti di altri film o dal cinema di serie B italiano o da un certo tipo di cinema popolare o di serie B, non solo di serie B, asiatico o dalla tradizione hollywoodiana, e reimpasta una sorta di calzone cinematografico, secondo me è veramente molto riduttivo. Sì. Non significa non capire di come Tarantino poi mette costantemente in gioco tutte le volte se stesso. Non può più raccontare, lo sa benissimo, una storia innocente e trasparente come quella del cinema classico, perché noi saremmo i primi a non crederci, saremmo i primi ad uscire dalla sala. E allora gioca con noi, ma non gioca banalmente come fanno i citazionisti da quattro soldi, strizzando l'occhietto allo spettatore e dando idealmente di gomito a noi che siamo seduti in poltrona per dire: visto, abbiamo visto gli stessi film e ci riconosciamo come in uno specchio. Sì. Quindi ho l'impressione che uno dei tratti caratteristici sia proprio quello di lavorare a fondo, e forse ce ne rendiamo meno conto perché i suoi film poi sono pieni di trovate, di colpi di scena, di cose che poi ci restano in testa. Ho l'impressione che lui lavori come un vero e proprio architetto su un'ipotesi di racconto avvenire, ed essendo un'ipotesi avvenire è un'ipotesi, ed essendo anche un'ipotesi non è mai qualcosa di definitivo, e questo spiega perché, al di là dell'atteggiamento da tifosi che al cinema è sempre un po' pericoloso, no? perché non, sì. I film non sono delle squadre di calcio, e questo spiega però anche l'attesa che ogni volta ogni suo nuovo film induce in tutti noi, no? Perché vogliamo vedere che cosa, come si è spostato, come ha risolto alcune cose, come è riuscito a costruire un pezzo di quello che giustamente ormai viene chiamato cinema 2.0, no? La galassia Lumière è veramente molto molto cambiata, e per fortuna ci abbiamo, no, delle astronavi come quelle di Tarantino, di Wes Anderson, di Paul Thomas Anderson. Poi ognuno di noi può aggiungere almeno altri 7-8 nomi, io non li faccio per non essere così noioso o troppo così didattico. Sì, proprio a questo proposito mi è tornato in mente, rispetto ai giudizi anche piuttosto ingenerosi e limitanti nei suoi confronti, era stato definito anche regista DJ proprio in base a quello che tu dicevi poco fa, mentre invece è capace anche di ha dimostrato di essere capace di momenti di grande cinema. Mi viene in mente adesso una scena proprio di Bastardi senza gloria, la scena dentro la taverna è di una tensione che non si trova così spesso nei film oggi. E rispetto al suo essere onnivoro e anche piuttosto settoriale sui gusti passati cinematografici sui quali si è formato, lui lavorava in una cineteca d'altronde, va di pari passo la colonna sonora, la scelta della colonna sonora che come negli altri giovani della giovanissima Hollywood che citavi prima, anche in loro e così anche in Tarantino, la musica è molto ampia, molto variegata, e questo ce lo ha fatto scegliere anche per questa trasmissione, insomma, perché è una colonna sonora piuttosto ricca, quella dei due volumi di Kill Bill. Ecco, la musica va di pari passo ai gusti, alla formazione cinematografica di Tarantino, non trovi? Sì, no, ma è totalmente coerente con l'universo di racconto, di colori, di umori che lui mette in scena. Sì, sì, sì. Ed è giusto che sia così, no? È una sorta, appunto, dire, secondo me può essere un grande complimento, perché sappiamo che ci sono dei DJ star che in realtà non sono capaci di produrre della musica originale e lavorano con le musiche rielaborate degli altri. Tarantino naturalmente è molto al di là di questo stadio di lavoro, però è onnivoro così come siamo onnivori noi, no? Nel senso che certo, ognuno di noi non va più al cinema e sceglie solo un filone, solo una tendenza. Ognuno di noi consuma ogni giorno una quantità di immagini andando semplicemente per strada, questa è una banalità che possiamo verificare tutti i giorni, ma è una banalità alla quale noi non facciamo più caso perché ci accade, no? E quindi accumuliamo tante di quelle cose. Però è anche interessante come anche in Kill Bill, no? Lui va a recuperare delle canzoni di decenni fa, no? Penso a Bang Bang, se non ricordo male l'interpretazione di Nancy Sinatra, che è una canzone che mette in moto un meccanismo della memoria, una sorta di piccolo alla ricerca di un tempo perduto del cinema, che però conserva una sua forza eccezionale. Naturalmente forse non sempre tutte le scelte musicali ci convincono, così come un altro grande regista, secondo me almeno, come Paolo Sorrentino, fa un lavoro sulla colonna sonora, sulla scelta delle canzoni, che trovo molto interessante. E se l'aggettivo non avesse forse perduto significato, direi ipermoderno, così come probabilmente tu, chi ci ascolta, io stesso, quando metto in fila una serie di canzoni che voglio sentire durante il giorno con uno dei tanti dispositivi che ci portiamo dietro, se io poi vado a vedere i titoli, c'è una strana coerenza incoerente in quello che ci metto dentro, sì, no? Sì. In cui mescolo generi, sensazioni, è esattamente quello che fa con le immagini Tarantino, quindi se la musica andasse da un'altra parte sarebbe abbastanza curioso. Mm-hmm. Sono molto curioso di capire come lavorerà per la prima volta direttamente con Ennio Morricone, no? Che lui ha citato, ha simpaticamente rubacchiato, evocato in molte colonne sonore, sì, proprio sì, perché non hanno mai lavorato insieme. Ora pare che per questo nuovo film, questo nuovo western, che è un western con la neve, già questa è una, è, come sappiamo, di western innevati ce n'è pochi nella storia del cinema, quindi sarà interessante capire se avremo una colonna sonora più tradizionale oppure anche lì lui poi mescolerà a quello che saranno il motivo guida o non so che tipo di scelte musicali faranno, sì, con Morricone, se poi farà sempre ricorso alla sua predilezione onnivora, come giustamente la definivi. Senti Enrico, in chiusura ci piace sempre chiedere ai nostri ospiti un film di cui ti piacerebbe sentire la colonna sonora in una trasmissione dedicata appositamente. Ma guarda, sai, da me dove abbiamo un po' giocato su un nuovissimo Hollywood e nuovo Hollywood, non dimentichiamoci che American Graffiti, che è un film molto importante della storia del cinema, è stato uno dei film, forse è stato il primo che ha utilizzato così massicciamente, sì, in una chiave che all'epoca era modernissima, adesso è un po' di modernariato, la colonna sonora. Bene. Così come lo ha fatto il meraviglioso, superbo Robert Altman, o Altman come diciamo noi in Italia, in quasi tutti i film, non solo in Nashville, sì, che è una sorta di musical senza il musical. Sì. Però American Graffiti, con le sue decine di canzoni, dimostra come quei ragazzacci giovanissimi di Lucas e Company avessero già intuito quale potesse essere una strada del futuro. Non c'era ancora iTunes, non c'era ancora il Mac come lo conosciamo e tutto questo lo trovo però geniale fatto all'epoca. Bene, Enrico, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci magari una delle prossime. Quando volete, a presto, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. By the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just abbiamo ascoltato Good Night Moon, il singolo di debutto del gruppo Shivery, dall'album del 99 I gotta give you a shot in the head for making me live in this dump. È un titolo strano per un album, ti dovrei sparare in testa per come mi fai vivere nello schifo. Che vuol dire chivalrie? Avviene dal francese charivari, è una serenata per sposi novelli, è la sigla dietro la quale si cela Ambrosia Parsley, una 29enne californiana cantante. Io volevo ricordarvi ancora che alle ore 17 inizierà il corteo cittadino da Piazza della Repubblica al Campidoglio. Sarà un'emergenza che vi seppellirà. Stop alla mafia dei profitti sulle nostre vite. Scendete in piazza e partecipate. E stiamo sempre ascoltando la colonna sonora di Kill Bill, in particolare il secondo film, e questa era About Her, la versione di Malcolm McLaren. L'originale era degli Zombie, mi diceva Federico. Sì, Malcolm McLaren, che è stato anche citato in giudizio per questo pezzo, perché fu accusato di plagio, è un personaggio abbastanza importante nella storia della musica, perché oltre a essere stato il marito di Vivian Westwood e essere stato insieme a lei proprietario di un famosissimo negozio di vestiti punk underground di Londra, è stato il manager dei New York Dolls, e per la sua fissa per quanto riguarda i costumi e il glamour eccetera, in qualità appunto di manager, li obbligò, disegnò per loro dei costumi di pelle rossa, perché voleva cambiare la loro immagine di drag queen in quella di comunisti perversi, e purtroppo il gruppo però si sciolse subito dopo, quindi non fu un'intuizione felice, mentre invece fu felice l'intuizione di creare un gruppo che poi diventò celeberrimo, i Sex Pistols, creandolo appunto con dei personaggi che in fondo non erano neanche dei cantanti. Infatti Johnny Lydon, che bazzicava il negozio portando i capelli verdi e vestendo come uno straccione con una maglietta fatta in casa dove erano state aggiunte le parole I hate e sopra la scritta Pink Floyd, impressionò McLaren soprattutto per il suo aspetto, lo fece entrare insomma nel gruppo, come ribattezzandolo come Johnny Rotten a causa dei molti denti guasti che aveva, e poi insomma ha fatto una serie di cose eccentriche, insomma è stato cantante, produttore musicale, manager eccetera, ha cercato anche di passiamo alla musica, poi se riesco a trovare la conclusione per Jock McLaren ve la racconto. Malagueña, concludo e cerco di recuperare il pasticcio di prima, e mi scuso con gli ascoltatori, finendo di dirvi che McLaren, oltre a essere stato il manager appunto dei Sex Pistols e di New York Dolls, non si arrese dopo che questi lo diciamo eliminarono dalla loro storia musicale, e approcciò i Red Hot Chili Peppers all'epoca, agli inizi della carriera, dimostrando interesse verso il loro management. Dopo aver ascoltato una loro breve esibizione dal vivo, McLaren rimase chiaramente deluso, secondo le parole del cantante della band Anthony Clates, e allora propose loro di cambiare immagine presentandosi con un look da punk surfisti innamorati del rock and roll anni 50, ma la band rifiutò l'idea. Prima abbiamo ascoltato Malagueña Salerosa, la versione elettrificata di Chingon, contenuta nel film C'era una volta in Messico di Rodriguez. Sì, non farò pasticci questa volta dicendovi che state ascoltando Radio Onda Rossa e che dovete sostenerla, perché è una radio libera, senza padroni, senza pubblicità, senza partiti politici, e quindi ha bisogno della vostra sottoscrizione, che potete fare al conto corrente postale 6180 4001, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma. Siamo ai saluti, vi ricordo anche dell'iniziativa di oggi alle 18, San Lorenzo, suoni e voci dalla strada, dalle ore 18 aperitivo musicale con i DJ di Radio Onda Rossa e l'orchestra Filo e Armonica di San Lorenzo, a seguire Bracciolata, iniziativa a sostegno della radio a cura delle trasmissioni del mercoledì, La Conta, Sapienza Clandestina e Nomi delle Cose, tutto questo al 3 Serrande Occupato, che si trova all'interno della città universitaria tra le facoltà di farmacologia e medicina legale. Ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16, potete seguirci sul sito della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Tracce di Cinema, sulla pagina Facebook di Tracce di Cinema, l'indirizzo di posta elettronica Tracce di Cinema @ondarossa.info. Ci salutiamo con David, con l'Arena di Ennio Morricone.